piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Oggi mi è capitata, girando in rete, una notizia abbastanza spiacevole. Cos'è successo? Una ragazza di 24 anni ha percorso 600 km per andare ad incontrare un ragazzo conosciuto in rete che le aveva fatto il filo e corteggiata per un po' di tempo. E se non sbaglio si erano anche visti, si erano già visti. Una volta arrivata nella città del ragazzo, ha ricevuto un messaggio con la scritta "You are pigged", che adesso non mi saprei neanche tradurre in italiano, ma in sostanza si tratta di un fenomeno chiamato pull a pig. In che cosa consiste? Un gruppo di ragazzi si sfidano, comunque una sorta di sfida, di gioco, chiamatelo un po' come volete, anche se a mio avviso è veramente una cosa squallida. Si sfidano a corteggiare le ragazze meno attraenti, corteggiarle in rete o anche comunque dal vivo, e una volta che insomma sono riusciti a far innamorare, comunque a invaghire la ragazza, la scaricano in questo modo, paragonando la ragazza in questione ad un maiale. Questa è la verità, ragazzi. Purtroppo oggi leggevo un po' di questo fenomeno su internet e a quanto ho capito le ragazze prescelte per questo... Probabilmente è un gioco antico, un gioco che negli ambienti maschili si è sempre consumato. Sedurre una ragazza che nessuno reputa all'altezza della seduzione del bello del gruppo, perché... Non perché abbia problemi, perché magari fuori degli standard usuali, magari si tratta di un gruppo di uomini che sceglie le donne soltanto a quelli che sono gli splendidi modelli di apparenza estetica che vedono nelle riviste patinato, guardano in televisione. E magari quella ragazza che, una ragazza che ha la sua attrattiva, ha il suo spessore, ha la sua carica di seduttività, si sente gratificata comunque che il bello del gruppo la cerchi e cerchi proprio lei. Sembra quasi la trama uno di quei film studenteschi di college che si vedono spesso ogni tanto, in cui proprio naturalmente il termine ricorda i maiali. Lui la seduce e poi lo racconta agli amici, ne fa oggetto di dileggio con gli amici, le amiche belle, quelle in prima linea, quelle perfette naturalmente, trovano confermata comunque la loro leadership. Ma in realtà con l'avvento dei social diventa un gioco crudele, un gioco che ha una fattispecie in più, anche il produrre le prove dell'avvenuta seduzione. Pull a pig, avete sentito, lo descrive questa ragazza, è un gioco che avviene nei social, avviene esattamente così. Viene adescata la ragazza attraverso i social, viene in qualche maniera coinvolta in un gioco amoroso, lei pensa generosamente di trovarsi di fronte a una storia amorosa. Poi le prove evidenti di questo incontro amoroso servono per creare una nuova vittima, una sorta di bullismo a distanza, bullismo allargato. Comincia a essere presente anche alle nostre latitudini questo problema. Voi pensate, ma è una cosa che non riguarda noi, non riguarda i nostri figli. Maura Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maura Manca è presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, la conoscete, è ospite nostro ricorrente, ha scritto vari libri, ma soprattutto ha una presa diretta nel mondo degli adolescenti. Proprio 3 giorni fa, e infatti avevamo programmato questa trasmissione, lei lanciò una sorta di grido d'allarme attraverso i social network, dicendo per prima, non mi risultava, avesse detto qualcuno, che esisteva questo pull a pig. Tu che tipo di prove avevi? E la tua osservazione fin dove è arrivata su questo fenomeno? Ma purtroppo è un fenomeno che è stato lanciato come innovativo in questi giorni, come una nuova moda, un nuovo gioco. Purtroppo rientra nell'ambito di tutte quelle prevaricazioni del bullismo, come dicevi tu, che noi seguiamo da tantissimi anni in maniera sistematica, solo che non erano mai passate sui social e diventate virali. Erano semplicemente rimaste circoscritte ai gruppi di amici che si divertivano a sedurre la ragazza che l'ha chiamata da loro la sfigata del momento, la sfigata di turno, ma semplicemente quindi è la vittima perché... classica degli atti di bullismo. Esatto, semplicemente perché è diversa secondo i loro canoni da un punto di vista estetico o anche psichico, quindi più sensibile, più studiosa, meno curata da un punto di vista fisico e più da magari da altri punti di vista. Allora per prenderla in giro, per illuderla, perché tanto secondo la loro testa non avrebbe mai avuto possibilità di interagire con questi ragazzi, si divertivano appunto a creare anche su delle chat, su WhatsApp, iniziare a scrivergli dei messaggi e poi farle diventare pubbliche. Chiamato appunto Pulla Pig adesso, ma è un fenomeno che rientra nel bullismo. Il messaggio finale, se è stata maialata, diciamo così, il termine crudele, significa che la ragazza ha la consapevolezza che era entrata in un gioco crudele. Allora, oggi, intanto invito il pubblico a chiamarci 800 24 00 24. Avete avuto dai vostri figli testimonianza di qualcosa del genere? Avete intuito che i vostri figli sono stati vittime di qualcosa del genere? Ricordate i precedenti di questo gioco crudele in epoca pre-social? Come avveniva nei licei, nelle scuole, in università? Qual era il tipo di vessazione che subiva? La ragazza non era allineata con i canoni estetici che venivano considerati vincenti. 800 24 00 24. Questa mattina il Fatto Quotidiano ospita un pezzo di Selvaggio Lucarelli che è stato già anticipato questa mattina proprio dall'autrice nel programma di Luca Telese, Inganna al maiale, l'ultima moda nella violenza social, dove attenta osservatrice dei fenomeni di prevaricazione in rete, si è fatta diciamo capofila di una crociata di denuncia. Prima nessuno sapeva dei famosi gruppi dedicati alla pastorizia o a cazzo duro. Oggi sanno che esattamente ci sono persone insospettabili, ragazzi carini, padri di famiglia che postano su Facebook le loro foto con i bambini, con le care mogli, con il cagnolino, che come gioco e passatempo hanno quello di prendere in maniera crudele in giro ed entrare nella vita privata di persone magari molte volte inconsapevoli. Selvaggio Lucarelli nel pezzo oggi intervista una ragazza che racconta, è testimone di un episodio avvenuto nel nostro paese, quindi non è qualcosa che avviene lontano, rispetto a questo fenomeno. Una vittima che però ne è uscita con orgoglio, è diventata diciamo la capofila della denuncia di questo fenomeno. E noi l'abbiamo al telefono. Buongiorno Irene. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sei emozionata, mi hanno detto. Sì, tantissimo. Ti è costato molto uscire allo scoperto? Mi è costato molto, nel senso che sto riaprendo una porta che avevo pensato bene di chiudere mesi fa, e quindi il rivivere in maniera diversa il tutto fa un po' male, rifà male di nuovo. Però ti rendi conto, Irene, che il fatto tu lo dica, lo racconta, che oggi questa mattina racconti quello che ti è successo, aiuterà tante altre ragazze a uscire, esatto, dall'anonimato e denunciare i loro aggressori, perché è stata, esatto, un'aggressione vera e propria. Sì, è stata un'aggressione, perché quando una persona abusa di un tuo momento di debolezza e ne fa scherno con altre persone, è assolutamente una violenza. Ma vediamo com'è accaduto. Innanzitutto tu lo dici nell'intervista che questa mattina, è avvenuto 50 kg fa, quindi eri praticamente, sì, un'altra persona rispetto a quella che sei adesso. Ero due persone in una, esatto. Adesso quindi... ho visto il tuo profilo Facebook, adesso alla faccia di chi ti ha preso in giro, mostri quanto sei bella, avvenente, stupenda, sei perfettamente in linea con tutti i canoni estetici più di successo in questo momento. Però cosa accadde quella volta? Cosa accadde? Allora, uscivo da una relazione disastrosa, soffrivo tantissimo per questa chiusura e iniziavo ad accorgermi di mettere su chili come mettevo su qualsiasi cosa facile. Mangiavi e ingrassavi, come accade, esatto, quando a certe, esatto, persone quando sono in un momento difficile. Chi non mangia e dimagrisce, chi mangia ingrassa, capita. Esatto. Io proprio abusavo di quello che avevo sotto mano, che sia cibo, alcol, eccetera. Quanti anni avevi? 27, quindi si parla di 2 anni fa. Due anni, non è una cosa lontanissima, 2 anni fa. No, 27 anni, quindi eri una donna non eri proprio una bambina, eri una donna fatta. No, esatto. E nonostante, insomma, questo essere donna, perché mi reputavo e mi reputo tuttora donna, ho ceduto a questo abuso tremendo del cibo. Tra l'altro soffrivo di bulimia già in precedenza. Quindi era uno stato, diciamo, da tenere sotto osservazione, sì. Non è che mangiavi, esatto, perché eri golosa. Avevi un problema alimentare che è un quadro che si definisce, su cui si può lavorare. Esatto. Quindi il problema c'era già di fondo. In più, dopo questa delusione d'amore, ovviamente si è ampliato il tutto e lì mi sono veramente rovinata con le mie stesse mani. Come è cominciato tutto? Come è cominciato? È cominciato che praticamente non avevo una vita sociale vera e propria. Avevo un'amica con la quale uscivo raramente, perché ovviamente la vergogna di mettere il piede fuori di casa è palese, è normale. Perché se un'altra avevi persona, la delusione, avevi il problema alimentare, ti eri un po' isolata dal mondo. Quindi? Assolutamente. Io non uscivo di casa, tant'è che mi rifugiai in questi gruppi poco consoni al mio essere adesso effettivamente. Ma ti hanno cercato loro? Come sei stata contattata? No, assolutamente. All'inizio mi sono iscritta in totale autonomia. E che gruppi sei entrata? Curiosità. Pastorizia e a cazzo duro. Esatto. Vabbè, erano gruppi dove pensavi in qualche maniera di ritrovare una tua maniera di sentirti in relazione, esatto, con qualcuno. Io non giudico. Soprattutto di sentirmi parte di un qualcosa che nella vita reale in realtà era proprio l'esatto opposto. E che ruolo avevi in questi gruppi? Che ruolo avevi in questi gruppi? Io non pubblicavo granché cose perché preferivo rimanere in disparte, proprio per non farmi notare più di tanto. Però mettevi tue foto in cui era evidente il tuo problema, diciamo, di alimentare? No, assolutamente in questi gruppi no. Più che altro si pubblicavano dei meme in cui si rideva e si scherzava su varie tematiche che poteva essere purtroppo il razzismo, poteva essere, che ne so, il fatto del giorno su cui ridere o meno. Vabbè, sono dei gruppi in cui si prendono in giro persone, cose, a volte, esatto, anche con crudeltà. È stato un momento della tua vita, eri dentro, non è che ti giudico. Sì. Ma come sei stata agganciata? Come mai sei diventata vittima te? Dopodiché ho conosciuto questa persona in un gruppo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. 800240024, un antico gioco di vessazioni, derisione, soprattutto delle donne che non sono in linea con i canoni estetici che vengono considerati vincenti, oggi si chiama Pulled Pig, diventa un gioco crudele che si fa nei social network. Una delle vittime ha parlato oggi al Fatto Quotidiano, ha mostrato anche le foto che sono state l'oggetto della sua derisione e sta parlando con noi. Irene? Irene? Sì? Eravamo arrivati al punto che la persona che tu, in un momento difficile della tua vita, in cui eri anche sovrappeso, che uscì da una delusione, mangiavi troppo, ti eri invaghita di un ragazzo che ha fatto una corte discreta ma interessante, romantica in rete, e vi siete incontrati. Esatto. Questo incontro è stato per me molto bello, forse per il periodo in cui vivevo era sufficiente per farmi sentire bene, ecco. Una persona che ti piaceva, avete avuto una bella storia, avrete detto delle belle cose, vi incontrate, state assieme, siete giovani, grandi, adulti, quindi potete... Esatto. Eri felice, eri? Ero molto felice, e l'unica cosa è che passati questi 3 giorni, già nel viaggio di ritorno, mi anticipa che la cosa non può essere... per delle cavolate, tipo tu fumi troppo, hai paura dei tuoni, quindi già si aleggiava nell'aria questa cosa. Cioè ti ha frenzonata dopo poche ore. Esatto. Vabbè, però questo può succedere, fa parte del gioco, lo sai. Sì, fa parte del gioco. Non però, è una cosa tragica questo, è anche diritto, passi 3 giorni con una persona che hai conosciuto soltanto in rete. Ci stai 3 giorni, ci vai letto, ci fai l'amore, non ti piace, esatto, glielo dici, non è come pensavo. Esatto. Questo però ancora siamo nell'ambito del lecito, potevi stufarti anche te, potevi dirgli guarda, sono stato 3 giorni con te, non mi piaci, c'è un cattivo odore, ciao, era normale. Io l'avrei detto subito il primo giorno, perché non sono una che aspetta. Ma tu sei donna, e gli uomini, esatto, sai, vogliono il tagliando completo, così è la nostra debolezza. Certo, quindi certo. Vabbè, tu avevi capito che non andava più qualcosa. No, non era andata come pensavi. Non era andata come pensavo, tant'è che poi dopo qualche battibecco iniziale poi ho lasciato perdere. Vabbè, poi è una storia che è finita, è una storiella finita così. E vabbè. Basta, fino a qua siamo non era un particolare motivo di cruccio. No, questo no. Questo no. Era anche grande, a 25 anni può succedere, no? Che vedi una persona, esatto. Ci passi 3 giorni, non è come pensavi, è finita la storia, fine, no? Assolutamente. E invece dove è stata? Cosa è successo invece dopo? Il problema si pone il mese dopo, un mese e mezzo circa dopo il nostro incontro. Vengo avvisata da un'amica che girava questo profilo fake su appunto questi gruppi con delle mie foto private. Ma con il tuo nome? No, era un alterato il mio nome, si capiva che era riferito a me, però alterato. Avevano cambiato qualcosa. E che foto avevano messo? Foto poco vestita. Questa una, se ne vede una sul Fatto Quotidiano oggi, di spalle, sì. Si riconosce dal tatuaggio, dai capelli tinti di azzurro. È riconducibile, a me, assolutamente. Se una ragazza di spalle guarda la televisione. Esatto, e appunto inizio a chiedere spiegazioni, poi questo profilo fu bannato, eccetera. Chiedo spiegazioni a lui non ne sa niente, all'inizio nega tutto, e poi invece, facendo un po' di pressione, mi confessa che girò quelle foto ad una sua amica per raccontare di questo incontro in buona fede, l'ha fatto. Ma perché ti aveva fatto le foto? Scusa, uno quando fa l'amore con una donna non gli fa delle foto. Senza... Però il problema di noi vittime 2.0 è questo, che una volta tutto si riduceva al gruppetto di amici e forse il cellulare nemmeno esisteva. Ma tu sapevi che ti aveva fotografato? Era un gioco comune fra voi? Cioè, condiviso fra voi o l'ha fatto di nascosto? Allora, due foto le ho fatte io personalmente con il cellulare, eravamo in macchina al viaggio di ritorno, quindi ma non quelle nuda Assolutamente non ne sapevo nulla, assolutamente, io manco me ne sono accorta che usava il telefono, infatti eri di spalle, esatto, quindi ecco il problema appunto di noi vittime di oggi è questo, che veniamo catapultate davanti a migliaia e migliaia di utenti, quindi la derisione non è ristretta a due battute, due offese al bar, ma davanti a veramente centinaia e migliaia di persone. Quindi le mie foto giravano su chat segrete, su gruppi segreti, su gruppi meno segreti, come quelli più grossi, che insomma noti. E il mio problema... Su questi qua, pastorizia e cazzo duro, naturalmente. Sì, sì. Il problema non è stata la chiusura, tra virgolette, della conoscenza con il ragazzo, che posso accettare. Il problema è subentrato poi dopo, perché io ho un lavoro, purtroppo, per fortuna, a contatto con il cliente, e avevo il terrore di uscire di casa. Io mi sono curata con antidepressivi, con ansiolitici, cioè non è stata una passeggiata. Beh, sai, avere questa spada di Damocle che potrebbe in ogni momento, un tuo cliente, un familiare, vedere delle tue foto in un atteggiamento intimo, lecito, ma privato, è un problema grosso. Molto grosso. Infatti io ero anche tentata di licenziarmi, cioè avevo dei pensieri veramente netti su quello che volevo fare in quel momento, perché già ero insicura di mio precedentemente, in più avevo questo stato sul web, io avevo paura di, prima il Facebook era la mia compagnia, cioè io H24 connessa. In quel periodo avevo il terrore di aprire il mio profilo e trovarmi qualcosa in bacheca. Ma tu hai provato a prendere un contatto con le persone che ti facevano questo, che alimentavano questa cosa? Ho provato a parlare, tutto è stato uno scherzo, ma noi stavamo scherzando, a noi piace ridere, piace prendere in giro, però il problema è che non pensano alle conseguenze. Questo è riferito al bullismo, riferito al razzismo, sotto tutti gli aspetti della violenza. Anche per quelle foto rimarranno per sempre, questo lo sai. E quello è il problema. Quello Beh, il tu problema. Diciamo che hai radicalizzato, in fondo secondo me hai fatto un'operazione mediatica perfetta. Dal momento sono uscite su un giornale, tu dici sti cazzi. E vabbè, ma avete fatto questo scherzo e adesso guardate cosa sono io adesso. Penso sia questo l'atteggiamento. Adesso sì, adesso, allora, se mi aveste chiamato 2 anni fa non avrei probabilmente avuto la forza di parlarne, adesso non ho nessun tipo di problema perché comunque ne sto uscendo a testa alta e comunque ecco, io parlando con Selvaggia Luccarelli, sì, ho avuto questa operazione, mi sono, ho ricorso alla chirurgia bariatrica, sì, per la salute, tutto quello che vuoi, però il primo pensiero, oddio, adesso non sono più, non sono più il soggetto da deridere in quei gruppi, quello è, rimane, anche se ti allontani da quelle realtà, quello rimane. Infatti, la tu hai mai cosa... pensato a un'azione legale su questa cosa? Ho pensato, ho provato. Anche tu la persona la conosci, sai esattamente, sì, chi è stato. È un reato a tutti gli effetti. Se tu lo denunci, certo, per quel reato, lui viene portato in tribunale per quel reato. Questo bisogna che si sappia. Sì, è importante dirlo più che altro, perché io partivo non sapendo nulla. Infatti ho perso tempo proprio per questo, perché ho iniziato a informare. È un reato grave, è un reato penale grave. Molto grave, molto grave. Soprattutto mi sono affidata alla polizia postale, non avendo possibilità economiche per intraprendere una battaglia legale con un avvocato serio, ho provato a chiedere i consigli alla polizia postale. La polizia postale mi ha iniziato a chiedere delle prove che io non riuscivo in quel momento ad ottenere, perché ero già fuori da tutti i gruppi e quindi non riuscivo a risalire all'URL. Non potevi fare lo screenshot, questa cosa andava fatto subito a caldo. Esatto. In questo momento, come ti senti? In questo momento sono un po' stubante, perché sto parlando ancora di questo episodio, però non mi fa male. Come allora, ovviamente, mi sento molto più forte, la fiducia in me stessa c'è, l'autostima c'è, ovviamente sono ritornata a quella di prima, però ricordo con amarezza i momenti in cui veramente pensavo addirittura di farla finita, perché è veramente una violenza scioccante. Beh, ci sono state ragazze che l'hanno fatta finita, ormai c'è, esatto, un episodio di cronaca che da manuale, cioè, tu hai pensato anche al suicidio quindi? Assolutamente, io avevo il terrore che tutto venisse macchiato di questo episodio, ecco, perché comunque il mio lavoro è importante, io lavoro in un esercizio turistico, quindi è la mia vita. E il pensiero che entrasse un cliente, anche perché questi gruppi sono enormi, un cliente che facesse parte dello stesso gruppo in cui venivano spammate le mie foto, era terribile. Fermati un attimo, Irene, dobbiamo dare la linea, fra un secondo ci risentiamo. Melog 800240024, parliamo di Pool & Pig, gioco di derisione delle persone che vengono sedotte e svergognate nei loro attimi di cedimento amoroso. Mattia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, no, volevo solamente un attimo chiarire un attimo la situazione più in generale, diciamo. Secondo me quello che porta queste persone ad agire in questo modo, parliamo anche allargando anche a cose ben più gravi come il femminicidio, che ora si usa tanto questo termine, femminicidio, ma ecco, io credo che sia proprio a livello sociale un problema piuttosto grave, per una mancanza e una carenza di contesto. Mi spiego, siamo in una situazione completamente caotica a livello sociale. I social, i network tendono ad aumentarla in modo esponenziale. La mancanza, la carenza sta proprio in una questione di modelli culturali, di ruoli, di persone che sono completamente allo sbando, dai giovani ai più vecchi, che poi agiscono e hanno delle insomma. Quindi scusa Mattia, sono giustificati, vorresti dire? No, non sono giustificati assolutamente, però è inutile attaccare il singolo, secondo me, la situazione, diciamo, che si crea in un determinato. Allora Mattia, andiamo al punto. Tu fai fai parte di questi gruppi, hai agito in questa maniera? Ma nemmeno per sogno, sto solamente dicendo che il problema grave è che avvengono in un contesto sociale disorganizzato, che non dà un ruolo a un giovane, non gli dà un contesto. Sì, adesso, scusa, no, Mattia, no, siamo fuori strada, scusami. Inutile, sì. Cosa c'è adesso? Perché c'è disoccupazione, e devono permettersi di fare queste cose. No, non non è per quello, è che manca proprio una rete di controllo rispetto a queste cose. Una rete di controllo, questa sono... è la rete di controllo individuale, è il livello di civilizzazione individuale. Non è... Ma appunto è questo livello di civilizzazione che non va bene, è un livello di civilizzazione che è solo in apparenza. Poi se lei scava all'interno di ognuna di queste persone che fanno questi atti qua, trova, sono assolutamente da condannare ovviamente queste persone, ma trova un disagio piuttosto forte, non sono d'accordo, non sono d'accordo perché li conosciamo, sono stati denunciati, la maggior parte sono onesti padri di famiglia che hanno i loro profili con le foto con i bambini, sono ragazzi con onesti genitori che hanno fatto di tutto per educarli. Non è esattamente così, è un momento particolare, se vuoi, di non conoscenza di quelli che sono gli effetti deleteri di questi strumenti. Barbara Dardanelli, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, Barbara Dardanelli l'ho chiamata perché è una ragazza che fece parlare di sé qualche anno fa, perché fece delle foto di Natale mandando i bigliettini d'auguri di lei tutta nuda che usciva da un panettone, da uno scatolone. Barbara Dardanelli, sei lievemente sovrappeso te? No, io sono grassa. Quanto pesi? Io peso quasi 90 kg. Vabbè, non mica tanto, dipende quanto sei alta. No, sono grassa e cioè non me ne faccio un problema, per fortuna. Tu hai mai sentito parlare di queste cose qua? Senti, ne sento parlare in questi giorni per anche questa storia che è venuta fuori, e anzi, prima di tutto volevo fare i complimenti a Irene perché denunciare queste cose è sempre cosa buona, bisogna avere il coraggio e bisogna non vergognarsi. Qualche tempo fa, non so se ti ricordi, io feci un progetto insieme a una mia collega che si chiamava appunto Grasse, dove fotografavamo delle ragazze comuni, appunto anche nude, e il progetto si chiamava proprio Grasse perché volevamo appunto sdoganare la parola e levargli il senso di vergogna che di solito gli si dà. Quindi in qualche maniera Barbara Dardanelli ha cercato di creare una sorta di orgoglio della diversità. Irene, a te la chiusura a questo punto. Tu adesso sei totalmente un'altra persona. Come pensi di gestire questa tua uscita, questo tuo gesto d'orgoglio? Tu hai fatto un coming out di tutte quelle che seguiranno te, che hanno avuto questo tipo di cattiva attenzione. Tu cosa pensi di fare adesso? Allora, tu adesso sei bellissima, quindi sei un'altra persona e quindi... Beh, sono un'altra persona, sì. Sono rinata, la mia vita è normale, non ho paura di mettermi contro, di aprire bocca adesso rispetto a questi elementi, però volevo fare solo un piccolo intervento velocissimo. Il ragazzo di prima parlava di disoccupazione, di disagio. Il ragazzo che io ho frequentato virtualmente e 3 giorni nella realtà era un ragazzo normalissimo, cioè un lavoro onesto, una famiglia onesta, quindi non ha disagi grossi e gravi. E il problema, il disagio vero è nel pianificare con altri elementi di questi gruppi, pianificare la distruzione di una persona e metterla alla gogna pubblica. Quello è un disagio.